hanno nel cuore l'oro della primavera, archi una mano tesa oltre la frontiera, fanno dei cerchi con una spada, sempre da soli in mezzo a una strada, sempre da soli in mezzo a una strada. Hanno le dita fini, le corde di chitarra, flauto e la faccia tosta come una caverna, un occhio alla luna, un occhio in più, solo per dirti I love you, solo per dirti I love you. Col mandolino fanno l'inchino, col cappellino si bevi tra un whisky e un bicchiere di vino. Col mandolino fanno l'inchino, col cappellino si bevi tra un whisky e un bicchiere di vino. Chili di note a fiume inondano la piazza, spine di pesce fini sono i loro sogni di pezza, loro sanno darti un po' di più delle avarie della TV, delle avarie della TV. Tipo visita bandito, tipo canne di bambù, volano i pezzi da $1000, magari più, strappano forchette e lacci, lacrime e tiramisù, e pregano il buon Dio, e pregano Gesù. Col mandolino fanno l'inchino, col cappellino si bevi tra un whisky e un bicchiere di vino. Col mandolino fanno l'inchino, col cappellino si bevi tra un whisky e un bicchiere di vino. Cantano le song del Dylan, cantano le song del blues, cantano le song di Guthrie, cantano per sordi e ladri, cantano bipop bilula, cantano bipop bye bye, cantano in un mare di guai. Sono nel dubbio certo, prima della sera, alla bocca hanno canzoni e mai una bandiera. Non c'è paura né falsità, fanno la radio davanti ai bar, fanno la radio davanti ai bar. Col mandolino fanno l'inchino, col cappellino si bevi tra un whisky e un bicchiere di vino. Col mandolino fanno l'inchino, col cappellino si bevi tra un whisky e un bicchiere di vino.